In un piatto poco cupo, poco pepe, pisto, cape. 33 sono i cretini che trottando entrano a Trento. Tre dragoni graduati, non gradiscono granite. Troppa trippa per la truppa, meglio 30 trote trite. C'è il celebre arcivescovo di Costantinopoli che si vuole di arcivescovizzare. A te le figlie d'Apollo, fa la palla di pelle di pollo. E i pesci vengono a galla per giocare con quella palla. Sciogli, sciogli, sciogli lingua, sciogli. Sciogli, sciogli, sciogli lingua, sciogli. Le parole sono solo imbrogli. Togli e metti, metti e togli. Quanti errori, quanti sbagli. Sciogli, sciogli, sciogli lingua, sciogli. Pepe dalla pappa al pupo. Pupo dalla pappa pepe. Pupo pappa poca pappa. Troppa pappa pappa pepe. Ava leva, l'uva leva. Eva l'uova leva dava. Quindi Eva è priva d'uva. Mentre Ava è priva d'uova. In Francia l'arcivescovo di Costantinopoli si vuol sempre disarcivescovizzare. A pelle figlio d'Apollo fa una palla di pelle di pollo. E i pesci vengono a galla per giocare con quella palla. Sciogli, sciogli, sciogli lingua, sciogli. Sciogli, sciogli, sciogli lingua, sciogli. Ba, ba, ba, para, para, para, ba. Ciao. Ciao, benvenuti. Benvenuti tutti alla nostra puntata numero 3 di Sciogli Lingua, numero sì, meno 3. È cominciata la puntata meno 3 di Sciogli Lingua, siamo qui e, con un inverno abbastanza freddo, sì, che è un video, ma siamo comunque contenti e di essere qua. Insieme abbiamo tante cose da fare oggi, no? Con che cosa cominciamo? E cominciamo con una notizia, come sempre. Sì, sembra che ci sia stata una persona che ha scoperto di essere il piatto principale di una cena cannibale. Il titolo è: partecipa ad una cena cannibale e scopre di essere pietanza. L'ospite si è insospettito quando ha trovato il suo nome scritto sul menù. Istruzione per una perfetta cena cannibale. Prima regola: non farsi beccare. E dunque non è davvero una buona idea quella di scrivere sul menù delle pietanze previste il nome della vittima che si stia per mangiare, soprattutto se ci è voluto davvero un bel po' per rintranciare qualcuno che avesse voglia di venire a cena con noi. Si rischia di farsi arrestare, il che può essere un esito spiacevole per quella che altrimenti avrebbe potuto essere una bella serata. E tutto questo succede in Slovacchia e la storia ce la racconta il Daily Mail. Un cannibale è stato arrestato in Slovacchia quando il suo ospite a cena ha cambiato idea all'ultimo momento quando ha scoperto di essere sul menù. La vittima futura, uno svizzero, aveva risposto ad un annuncio internet inviato dal 43enne di Kisak in Slovacchia, che cercava una persona che fosse stato d'accordo ad essere cucinato e mangiato. Ha poi affermato: pensavo che fosse niente di più che un gioco fantasy un po' macabro. Dunque, che colpa ha il povero cannibale? Lui onesto era stato. Voglio qualcuno da mangiare. È l'ospite che ha frainteso tutto, pensando che si stesse scherzando. E invece era tutto vero. Ma dopo un approfondimento della questione è risultato chiaro che le intenzioni erano diverse. Dopo una conversazione telefonica con l'uomo, ha realizzato che si trattava di qualcosa di serio. Così ha avvertito la polizia svizzera, che ha informato la sua controparte slovacca. Mi sembra che... Poi no, non c'è più approfondimento a proposito dell'arresto di questo signore. Del cannibale. Sì, questo cannibale. Che è rimasto con fame, proprio. Sì. Poverino. Sì, poverino, ma il problema è che poi non so se sia veramente un reato, quello sì, certo di mangiare, però quello di mettere un annuncio sul giornale o su internet chiedendo una persona, se poi se non si realizza l'azione, se non si concretizza questo, può essere arrestata la persona, no? Dipende dalla legge, sì. La legge slovacca. Tu dicevi forse sarebbe come una minaccia. Non è una minaccia, perché se io metto un annuncio sul giornale, cerco qualcuno che si voglia volontariamente farsi ammazzare. Sì, non sei del tutto colpevole, perché l'altra persona. Certo che non verrà nessuno. Che certo, non verrà nessuno, ma finché il fatto non è consumato, non è un delitto. Sì, certo. Il signore qua pensava che fosse uno scherzo. Quando ha letto. Sì, sì, certo. Sì, certo. Però ma in realtà è da pensare che sia uno scherzo. Oh, sì, no? Sì, certo. Non... Perché come può essere. Ma darci tu. Uno che non aveva proprio niente da fare. Sì, sì. È andato lì. Tante di queste cose che a volte leggiamo qui sono fatte da persone che non hanno niente da fare. Bene, però siccome a volte quando non abbiamo niente da fare non è male mangiare, non persone, però mangiare e soprattutto se la cucina casareccia, quindi quella preparata a casa. Sì. Quindi potremmo ascoltare Radici nel Cemento, sì, che cantano una lode alla, ecco, alla cucina romana e casareccia. Speriamo mi piaccia. Oh, com'è buona la cucina casareccia di Roma. Non è plasticona come quella che fa McDonald's. In una parola, ognuno parla come magna, non si trova. E a casa mia è sempre festa, che ci sia pasta, che ci sia minestra. Mi madre a falla è una maestra, quando scodella nessuno protesta. E casareccia è genuina, niente OGM nella mia cucina. Si mangi gnocchi o fettuccina, e il mattarello ha fatto la sfoglia fina. Con mamma e nonna in combination, alli fornelli ci fanno una session. Soffriggia dritto, soffriggia rovescio, che quando è ora qua vanno depression. Hai da sentire poi quanto è squisito, è pronto l'abbacchio a scottadito. Con le patate al forno bello è servito, se non ce l'hai fa venire l'appetito. Con la ventuccia la grippa romana, non ti scorda scorveracce la grana. Pasta e patate, pasta e lenticchia, peperoncino cubi una dicchia. È quello buono, è quello che picchia, facce che hanno sentirai come fischia. Oh, com'è buona la cucina casareccia di Roma. Non è plasticona come quella che fa McDonald's. In una parola, ognuno parla come magna, non si trova. Vertice di bucatini alla matriciana, 35 a sarti in bocca alla romana. Pensate a testa quando c'è la parmigiana, il trionfo della dieta mediterranea. E la scarola indivia e valeriana, fino a che carote a maggio la fava romana. Tutta prima scelta vegetariana, sta in confidenza con la fia dell'ortolana. Carciofi alla giudia con le porchette, la mortadella, la pizza e le rosette, la coratella fritta vuoi mette, e mille mille mille altre ricette. Per carità, buono riso alla cantonese, con le giamaicano, zucchini, zuppa inglese. L'altre cucine non si sentano offese, si è Roma caput mundi del bel paese. Oh, com'è buona la cucina casareccia di Roma. Non è plasticona come quella che fa McDonald's. In una parola, ognuno parla come magna, non si trova. Oh, com'è buona la cucina casareccia di Roma. oh com'è buona, oh com'è buona, la cucina casareccia di Roma, oh com'è buona, oh com'è buona, la cucina casareccia di Roma, oh com'è buona. Italiano livello A1. Questa lezione è stata preparata in base al quadro comune europeo di riferimento. Lezione 1. Un signore entra in un negozio. Dialogo tra il cliente e la commessa. Buongiorno. Buongiorno, mi dica. Sì, vorrei dei gatti. Dei gatti? Sì, non ne abbiamo molti però. Ma io ne voglio soltanto due. Ah sì? Di che colore li vuole? Blu e giallo. Uno blu e uno giallo? No, due blu e gialli contemporaneamente. Scusi, non ho capito. Due gatti blu e gialli contemporaneamente. Non ho capito l'ultima parola, scusi. Gialli, di colore giallo. Sì, sì, quella la so. Non ho capito l'altra. Quale? Non la saprei ripetere. Va bene, mi dia i due gatti, per favore. Quanto costano? 34 euro l'uno. O 50 euro, me ne dia uno e mezzo. Scusi, è impossibile perché uno e mezzo sono 51 euro. Mi potrebbe fare uno sconto? Mi faccia chiedere al capo se è possibile. Attendo ma un attimo. 5 minuti dopo. Sono spiacente, signore, ma gli sconti si fanno solo di giovedì. E oggi che giorno è? Mercoledì. Allora, c'è da sedersi qui? Sì, di là. Non c'è problema, aspetto qui fino a domani. Va bene, signore, si accomodi pure. Grazie. Abbiamo imparato i colori blu, giallo, gli animali, gatto, i giorni della settimana, mercoledì, giovedì, i pronomi, ne voglio due, di che colore li vuole, e i pronomi combinati, me ne dia uno e mezzo, il modo imperativo, attenda un attimo, mi faccia chiedere, le espressioni, quanto costano, mi potrebbe fare uno sconto? Sono spiacente. C'è da sedersi qui? Si accomodi pure. Velocemente, vai! Date il pane al pane cazzo, date il pane a date il pane al pane cazzo, date il pane al pazzo, date il pane al cane pazzo, date il cazzo al pane a pane. Date il date il pane al cane pazzo, date il pane o cazzo. Date il cane al pazzo cazzo! Bene cari ascoltatori nostri, abbiamo qua un invitato molto speciale parlando di cucina, di mangiare, di ristoranti. Sì. Che viene dal Brasile. Dal Brasile, sì, abbiamo qua con noi Eduardo Amado, l'imprenditore brasiliano che sta per aprire un nuovo ristorante. Per carnivori, sì, però. Quella è la curiosità, che aprirà tra poco il 8 settembre a Berlino. Flimé, il nome del suo ristorante. Salve. Salve signor salve. Eduardo. Salve. Come salve a tutti. Grazie di essere qua con noi. Benvenuto. Grazie. Ci racconti un po' di questo imprendimento, del suo ristorante? Come mai le è venuta in testa questa idea? È un'idea che mi è venuta in mente quando ero bambino. Bambino? Sì. Davvero? Da piccolo allora? E mio padre mi raccontava delle storie dei guarì, forse della tradizione. No, questo l'ho saputo dopo. Ah, e dopo associato. Sì, tanto per dare una base storica, no, a questo. Certo. un motivo. Certo, una fondamentazione storica. Perché lei ha già un ristorante di questo genere in Brasile. In Brasile. E adesso vuole prendere un altro? Vuol dire che funziona molto bene il ristorante. Insomma, non è che funzioni molto bene, è che si apre una volta al mese soltanto. Però quindi bisogna prenotare con molto tempo. Molta gente prenota. Sì, ne abbiamo già di clienti anche per settembre 2015. Non so se volete prenotare per abbiamo ottobre 2015 libero. Forse ne pensiamo un po', sì, prima e poi. Perché già abbiamo poi ospiti molto famosi. Come? Che hanno molti soldi. Tipo questo calciatore Neymar. Molti uruguayani forse prenoteranno. Sì. Sì, sì, sì. Ma forse prima dobbiamo spiegare. Non so se avranno i soldi. Perché è molto caro. Non belli sarebbero un po' i piatti. Io credo che è meglio prima spiegare un po' come funziona questo ristorante. Sì. Perché abbiamo letto che le persone donano i suoi organi, le sue parti e dopo voi cucinate questo. Sì, faccio un racconto. Sì, no, le persone non donano, no, in realtà non donano gli organi, donano tutto il corpo. Tutto. Il corpo e poi noi ci pensiamo, no? Scegliete. La parte scegliamo. Non è che posso donare una gamba. No, no. Deve essere tutto, tutto niente. Tutto proprio quando okay. Muoiono. Certo. E che fanno prima un documento legale? Sì, sì, perché alcuni lo volevano fare anche dopo e non ci sono riusciti, quindi. Ma si può anche con un documento PDF dal vostro sito? Sì, infatti le persone possono entrare al nostro sito e scaricare questo documento, compilare e dire che vogliono donare il proprio corpo per il ristorante. Ma il ristorante pensa tutto, tutte le spese di degenza all'ospedale, no? Io anche, dopo di morta non dovrò pagare. Insomma, poi è difficile perché non si può avvelenare questo signore, no? O signora o quello che sia. Deve essere ammazzato in un altro modo. No, anzi, voglio dire che deve morire morte naturale. Certo. Però non c'è una cosa che non capisco. Voi ricevete corpi e persone da tutto il mondo o solo dall'area in cui si trova il ristorante? In principio solamente da cucina locale. Da Brasile. Sì. Perché anche è difficile portare i corpi. No, ma questo non c'è problema per questo, perché noi riusciamo a infilarli nelle navi che partono dai porti sempre con dei frigoriferi molto, molto forti, così adeguati, freezer a meno 25 gradi. No, non c'è problema. Infiliamo le navi che caricano anche che ne so, le scarpe, tutto insieme. Tutto insieme. Sì, a volte troviamo dei morti che hanno delle scarpe da tennis che sono nella nave. Perché a volte i marinai sono annoiati e giocano con i corpi. Come se fossero bambole, le mettono nei vestiti e si divertono un po'. Poi no, ma la cosa più speciale è che a volte questi marinai muoiono dentro il frigorifero. È meglio per voi. Fa così freddo. Ah, bello. Fa così freddo perché così ne abbiamo di più. Di più, più certo. Corpi da mangiare. E meno marinai per il barco, ma. Ci sono meno marinai, ma. E meno marinai, sì, ma tanto è sempre mano d'opera che si trova, no? Sì. Tutto si trasforma, sì, sì. Tantissimo. Niente, poi adesso stiamo per aprire a Berlino. Sì, scusa, a Berlino. Che parlo male. Sì, male. Non capiamo, non si può. Sto imparando, sì, molto l'italiano bene, perché appunto per questo che lo apriamo a Berlino. Ah, certo. Ma non dovrebbe imparare tedesco? Il tedesco, come il tedesco? Il tedesco è un'altra lingua proprio. A Berlino si parla italiano? No, no, si parla il tedesco. Ah, tedesco. Mi dispiace che spesso sì. Non... è un po'. Comunque è bello perché ha potuto parlare. Ci sono italiani noi dappertutto. Sì, sono molto portato per le lingue io. Mi piacciono le lingue. Sì, e infatti è la parte del corpo che io la mia parte sempre che le piace di più. Sì. Ah, ci parli un po' dei piatti, sì, quali piatti sono i piatti speciali? Bene, la lingua non la diamo perché la mangio è sempre per io. Per te. Sì. Poi i piedi non vanno mangiati. Vanno buttati via con le scarpe da tenere. Sì, ma sì. Cioè tagliamo così il piede con la scarpa, tutto taccato. Tagliate le lingue da un posto per lei e i piedi. Sì, poi diverse parti, non vorrei entrare nei dettagli perché altrimenti la gente poi non entra, non va al nostro ristorante. Certo, non, sì. Non dico che sia ma spaventoso. Ma un'offerta, un annuncio di se venite qua potete mangiare. Bene, però è un'offerta, quello che abbiamo scoperto è che c'è tutta questa questione degli emisferi, no? Dell'emisfero sinistro, destro del cervello, eccetera, e si riflette anche nel corpo delle persone perché infatti hanno un sapore diverso le parti destre e sinistre del corpo umano. Interessante. Quale è più buona? Questo un po' dipende dai gusti. Sì, è più saporita la parte destra. E sono più buoni uomini o donne? Dipende in che senso. Poi magari spieghiamo in un altro orario. Ricevete anche non è l'orario bambini adatto. Morti, non so, anziani di tutte le età. O forse la sì, abbiamo anziani di tutte le età. Abbiamo bambini di tutte le età. E lei, per lei questo mangia tutti i giorni carne umana o lo fa una volta al mese quando apre il ristorante? Come vive lei questo? No, io in realtà sono fuori da questo, io sono vegetariano. Non mangio la carne di mucca, la carne di pesce, mai. Niente. No. Ma sì, la umana. Sì, quella umana sì. Certo. È da bambino che la mangia? Cioè, no, era il mio sogno, ma i miei genitori non me lo facevano fare. Avete visto che sempre i genitori hanno tutte queste storie, sì. Scuse. Sono molto egoisti. Sono egoisti, sì. Ti impediscono di essere te stesso, veramente realizzare i tuoi sogni. E poi quando sono diventato maggiorenne, a 35 anni, ho deciso di fare la mia strada da solo. Va bene. Così. E di essere chi volevi essere. Veramente. Complimenti allora. Grazie, perché. Grazie. E che cosa pensa lei? Siamo per finire. Cosa pensa lei delle persone che pensano che questo sia nauseante, che sia uno scherzo? State per finire, ma non state per morire ancora, no? No, perché altrimenti magari potevamo pensare a. Non vogliamo pensare ancora. Ma saremmo disposte a forse no? Parliamo dopo. Va bene, sì, ne parliamo dopo. Che cosa penso delle persone che dicono che sia nauseante, che sia uno scherzo, che non è possibile? Bene, ma sono cose che all'inizio ovviamente anche in Brasile è stato molta polemica, anche curiosità, però è come tutto, si deve abituare le persone alle cose nuove. Alle cose nuove. Certo, sì. Non aver paura alle cose nuove. Sì, sì. Quanto tempo è che mangiamo i morti? Secoli che si mangia. E lei sarebbe disposto dopo di morto a donare? No, io no. No, ma anche per scherzo, no. No, neanche per scherzo. No, perché io non ci sarò più. Cioè, ma i soldi col mio corpo. se io dono il mio corpo dopo di morta, ho fatto il documento, tutto quello, la mia famiglia riceve qualche soldo? No, niente. Mi faccia vedere il contratto, la lettera, sì, quella piccola lì, sì. Credo di no, comunque non mi serve, no. Io non sarò più. Sì, però la tua famiglia si parte sempre forse. Da questa ipotesi, no? Che le persone non hanno nessun interesse dopo morti. No? E avete molte persone che donano? Io non vi dico, non sono tante perché per una volta vite. Al mese, però siamo sicuri che in Europa avremo più successo. Sì, sono più aperti di dove? Sono più aperti. Che in Latinoamerica. Sì, senz'altro. Allora, molte grazie. No, grazie. Potete entrare al sito della nostra, se lei dice, nostro ristorante, non scappare che ti vogliamo scannare.it. Molto preciso il sito, sì. Spiega chiarissimo. Una signora che sta per morire, non so. Sì, c'è una. Forse deve andare già perché sicuramente avrà una persona che vuole donare. Sì, bene, grazie perché mille, sì, è un'occasione unica che abbiamo, sì, di prendere questo corpo, altrimenti il mese prossimo non possiamo aprire. Grazie mille, complimenti e in bocca al lupo con Slime. Sì. Crepi. E con il tedesco anche. Crepi, sì, lupo. Il tedesco. Ah, grazie. E complimenti per il suo italiano. Sì, stupendo. Grazie. Se l'arcivescovo di Costantinopoli si disarcivescovizzasse, voi vi disarcivescovi, anche voi vi disarcivescovi, scusate, faccio la domanda. Giovanotti desta Roma bella, se voi ragazzi fatti col pennello e le ragazze famo innamorare, e le ragazze famo innamorare. Ma che ce frega, ma che ce importa se lo stardino ci ha messo l'acqua, e noi è dimo e noi è famo. Bene, abbiamo sentito La società dei Magnaccioni, che è una canzone, o come si dice a Roma, uno stornello tipico, popolare, romano, in una versione carinissima, piuttosto sì, nuova. Molto bella. Adesso la cena. A proposito, sì, come stiamo arrivando alla fine della trasmissione. Abbiamo anche fame, dopo aver parlato tanto di mangiare. Ma non qualunque cena, la cena di Ettore Scola. Uh-huh. È un film del 1998, un film italiano, che ha una particolarità, come forse come è stato un po' capace questo regista italiano, prima anche è stato capace di fare un film, per esempio, solo con gente ballando. Adesso no? Con ballando, gente ballando. In un ristorante. Mangiare. E cose che succedono in una tipica trattoria romana. No? E che questi personaggi che cosa rappresentano secondo voi? Sì, rappresentano ognuno in un modo diverso la cultura italiana. Magari diversi tipi umani. Diversi tipi umani, diversi stili di vita, diversi professioni, rapporti anche. Sì, anche tipi di ideologie, modi di pensare. Infatti, per esempio, c'è la padrona del ristorante. Flora. Sì, il personaggio che è interpretato da Fanny Ardant, che è un'attrice bravissima, e anche, a proposito di attori molto bravi, c'è anche il grande Vittorio Gassman. Vittorio Gassman, sì, come il maestro, un uomo molto saggio nel film, che guarda tutti ma veramente non prende parte. Sì, per nessuno, però insomma è come un punto di riferimento per chiedere consigli, no? Una figura anche molto rispettata. Un rapporto molto carino con Flora anche. Come gli organizzatori di tutto lì dentro il ristorante. E funziona così, la camera si va spostando da tavolo a tavolo, sì. E così si sentono parti delle conversazioni tra i clienti, no? E c'è anche, per esempio, la madre, ecco, la figlia che vuole diventare, la figlia vuole diventare monaca, no? Uh-huh. E la madre non vuole perché pensa che sia una forma di perdere la libertà. Sì. Vuole che la figlia sia come le altre ragazze, sì, come lei. Sì, infatti sono molto diverse, no? E sono è una coppia di genitori separati, no? E la figlia non sa, il padre cosa fa. Era d'accordo con lei, sì. Poi altre cose un po' buffe, come questa Lola che ha dato appuntamento a tutti i suoi amanti, sì. Alla stessa ora, per chiarire le cose, ma le cose alla fine non si chiariscono. No, non si chiariscono niente. Ma alla fine finiscono tutti amici. Sì. E alla fine arriva un altro amante. No, il marito. Ah, il marito. Il marito che la picchia, no? Sì. In realtà, sì, è una cosa molto particolare. Abbiamo la famiglia giapponese. La famiglia giapponese. Fare le foto, scattare le foto ogni secondo. Sì. Sì, la danno ignari completamente di quello che sta succedendo. Sì, sono felici. Sì, mangiando. Si limitano a scattare foto. E il bambino giocando. Sì, con tipo un Game Boy, sì, no? Sì. Con quei giochi tipico della tecnologia. Che esistevano, sì. Ebbene, poi ci sono cose che accomunano tutte le persone, no? Il piacere di mangiare, sì. Sì. E poi l'altra cosa è che c'è un compleanno della nipote, sì, della padrona del ristorante, e quindi sono riuniti tanti ragazzi, no? Amici di questa ragazza, e c'è una sorpresa per lei che è una cellista, no? Suona il cello, e tutti ascoltano, sì, tutti in pace dopo. Sì. Sì, rimangono tipo ipnotizzati, sì, da questa musica, ed è uno degli altri momenti che veramente si uniscono in una sola cosa. La musica. Quindi è da consigliare la visione, sì, di questo film. Molto bello. Sì, veramente interessante il modo, sì, in cui Ettore Scola può, non so, dimostrare i diversi casi in un, allo stesso tempo, sì, in uno stesso posto, diverse storie nella RAI. Sì. Bene, quindi niente, noi ci andiamo adesso a rivedere il film e voi speriamo che riusciate a trovarlo. Non vi diremo come, perché la pirateria è un reato, quindi e noi non vogliamo, sì, diffondere, però sapete bene che insomma che c'è. Per, sì, i film insomma che hanno già qualche anno e anche quelli attuali non è facile trovarli. Non è facile trovarli in modo legale, sì. Vedrete un po' come fanno. E salutiamo tutti e grazie mille. Vi aspettiamo la prossima puntata che sarà meno 2. Meno 2. Sì. Si sta avvicinando lo zero. Sì. Che non sappiamo cosa significa. Sì, no, non sappiamo se è buono. Sì. Noi ce ne andiamo a mangiare perché sì, dopo aver parlato. No. ciao, buone cose. Bella forestiera, ti vieni da lontano, capisci? O non capisci? Ai ai, dite come far, ha bisogno un traduttore per spiegarle il suo amore. Ai ai, dite come far, ci vorrebbe un poeta per tradurre le parole. Ehi già.